Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. In vista dell'apertura del nuovo tunnel del San Gottardo, che renderà molto più rapide le connessioni tra Zurigo e Milano, ma anche in vista dell'Expo, un'ampia delegazione zurighese ha appunto visitato il capoluogo lombardo. Ed è così che insomma ha avuto l'opportunità di incontrare in una bella sala del Castello Sforzesco Anna Schindler, direttrice dello sviluppo urbano ed economico, scambi culturali e affari esteri della città di Zurigo, città molto avanzata su vari filoni della partita delle Smart City. E allora, insomma, le ho chiesto di raccontarci che cosa stanno facendo, sentiamo com'è andata. Se si parla di Smart City, magari Zurigo ha diverse iniziative. Abbiamo votato un referendum 6 anni fa sulla società 2000 Watt, poi lavoriamo molto sul traffico pubblico, biciclette, pedestri e così via. Diciamo subito, il 50% degli zurighesi non hanno neanche l'automobile, quindi evidentemente, siccome non è una città povera, è perché non ne hanno bisogno. Non ne hanno bisogno perché praticamente abbiamo un sistema di traffico pubblico così efficiente che non hanno bisogno della macchina. È lo stesso numero di New York, il 50%, gli abitanti di New York. Sì, sì. Poi abbiamo anche altre iniziative magari più ecologiche che lavoriamo con l'acqua. Abbiamo un'acqua, il nostro acqua che esce dal rubinetto che beviamo viene dal 70% del lago di Zurigo, in cui facciamo anche il bagno. E qui voi avete una tecnica particolare, abbastanza unica, per monitorare lo stato di queste acque, no? Sì, questo è vero, lavoriamo soltanto o spesso praticamente solo con degli elementi biologici. Per esempio prendiamo quest'acqua del lago, questi 70% li prendiamo del lago in un posto a 500 metri dalla riva, lo facciamo entrare in degli impianti per pulire quest'acqua e per monitorare il sistema, se funziona, se non funziona. Abbiamo degli animali, due specie di animali, una sono le trote, l'altra sono i pulci d'acqua, che vivono, non dappertutto in questi impianti, ma in due impianti particolari vivono, e loro quando l'acqua per esempio dovrebbe andare male o sarebbe più sporca di quello che sia normale, cominciano a comportarsi in modo strano, praticamente di regola nuotano contro il corrente, se invece l'acqua diventa sporca nuotano col corrente per evitare le sporchezze, le cose non pulite nell'acqua, e così noi notiamo se i nostri metodi funzionano o no. Naturalmente nelle due vasche in cui vivono le trote e queste pulci d'acqua, che sono delle specie di gamberetti, diciamo, l'acqua dopo la depurate ulteriormente, no? Non gli fate bere l'acqua dove vivono le trote. Facciamo così, comunque si potrebbe bere anche l'acqua così, e lo dico veramente perché non è sempre stato così, ma visto che si fa il bagno spesso si beve anche dell'acqua direttamente, non pulito, e non muore nessuno. C'è un altro tema che mi sembra molto interessante, perché Zurigo è una città molto costosa, è una delle città più costose della Svizzera, che è uno dei paesi più costosi d'Europa. E voi vi state ponendo il problema di non avere una popolazione puramente elitaria, perché questo rischio oggettivamente c'è. Questo rischio c'è, noi diciamo che vogliamo essere una città per tutti. Sto parlando sul livello sociale, non è una cosa che si dice solamente, praticamente abbiamo la tradizione abbastanza lunga, da più di 100 anni, delle cooperative negli appartamenti, nell'abitazione. Queste cooperative danno, siamo al 90% siamo della gente che affitta i suoi situazione appartamenti. Totalmente opposta a quella italiana, no? Da voi quasi tutti non sono proprietari di casa, il 90%. Queste cooperative affittano appartamenti. Sì. Queste cooperative affittano appartamenti, però li affittano al prezzo che hanno costato quando sono stati costruiti, quindi non è un prezzo di mercato libero, ma è un prezzo controllato, un prezzo che di regola è quasi al 30% sotto quel prezzo di mercato aperto, libero. È un prezzo calmierato, e voi comunque è vero che avete una tradizione centenaria su questo aspetto, però ultimamente avete capito che è molto importante e mi pare lo state spingendo. Sì, abbiamo votato un referendum anche su questo 2 anni fa. Non ci sorprende? È chiaro, nel 2012. Oggi come oggi siamo a un percentuale di quasi 26%, 25,9, però dovremmo arrivare al 33% di questi appartamenti delle cooperative fino nell'anno 2050, quindi vuol dire fino a 35 anni. E vuol dire, visto che Zurigo cresce, Zurigo è una città che cresce molto forte, vuol dire che tutti questi appartamenti che verranno costruiti nuovi, si dovrebbe fare una bella percentuale di cooperative. Tipo la metà, per passare dal 25 al 33. Forse non basta, comunque è un compito abbastanza difficile, diciamo. Torniamo in studio, ma solo per salutarci, per darci appuntamento a domani. A voi tutti una buona serata.